البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا Buongiorno Palestina. Ogni mercoledì alle 17.30 su radiowombat.net. Dedichiamo questa trasmissione a uno di quegli aspetti di grande importanza nella cultura di una società, ma che vengono accuratamente oscurati dai principali media nazionali. Di cosa stiamo parlando? Parti importanti della società civile, anche italiana, stanno reagendo all'uso strumentale e politico del termine antisemitismo. Punto di riferimento ad un utilizzo strumentale di questo termine è stata una lettera pubblicata sul Guardian a fine novembre del 2020 da parte di 122 personalità del mondo accademico, artistico, scientifico, arabo e palestinese. A questo hanno fatto seguito 276 firme di sostegno da parte di colleghe e colleghi del mondo italiano, dello spettacolo, del mondo accademico, artistico, scientifico e musicale. La lettera delle 122 personalità arabe ha avuto l'appoggio anche di un folto gruppo di ebrei di diversi paesi. Oggetto della critica a cui fa riferimento la lettera riguarda la definizione di antisemitismo divulgata dall'IRA e i suoi relativi allegati. Ricordiamo che IRA, IHRA, è acronimo di International Holocaust Remembrance Alliance, in italiano l'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto. L'uso distorto e l'abuso della definizione di antisemitismo viene fatto in Israele, in Europa e in molti degli stati, istituzioni e governi allo scopo di delegittimare la lotta per i diritti del popolo palestinese contro l'occupazione israeliana da parte dei movimenti di solidarietà. A questa iniziativa, che ha visto in particolare l'impegno di Zeitun, un'attenta fonte di informazione online sulla Palestina, e dell'associazione Cultura e Libertà, la nostra trasmissione Buongiorno Palestina vuole dare un contributo intervistando oggi una delle personalità italiane firmatarie del sostegno alla protesta. Il dottor Domenico Gallo, magistrato della Cassazione e già senatore della Repubblica, è oggi ai nostri microfoni e ci dirà cosa lo ha spinto a sostenere la lettera di protesta, risponderà alle nostre domande sul contenuto del documento dell'IRA, al suo valore legale e ci parlerà di diritto internazionale, dei diritti fondamentali dell'uomo e molto altro. Tutto questo subito dopo la selezione stampa della settimana e un breve intervallo musicale. Buongiorno Palestina, sono Angela e vi parlo dei 5 articoli selezionati dall'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese sul cui sito potete trovare per intero e con le relative fonti. Nel primo articolo, di Michele Giorgio, dal titolo Bethlehem senza precedenti, Israele, regime di apartheid, vengono riportate le dichiarazioni di Haggai Elad, direttore esecutivo della ONG ebraica Bethlehem, che hanno accompagnato la presentazione del rapporto su Israele, definito come un regime di apartheid. Questo perché, sia entro i confini di Israele, dove il 21% della popolazione è costituito da palestinesi, sia nei territori della Cisgiordania, occupata militarmente dagli israeliani, tutta l'area è organizzata secondo un principio: affermare e perpetuare la supremazia di un gruppo, quello ebraico, su un altro, cioè quello palestinese. Non a caso, la legge fondamentale Israele, Stato della Nazione Ebraica, approvata dalla Knesset nel 2018 sancisce tutto ciò. Nel secondo articolo, dal titolo «Siamo la più importante associazione israeliana per i diritti umani e questo lo chiamiamo apartheid», Haggai Elad, il direttore appunto di B'Tselem, a partire dalla presa di coscienza della sua condizione di privilegiato in quanto israeliano, evidenzia le diseguaglianze tra gli ebrei e i palestinesi in virtù della supremazia degli ebrei sugli altri. Nel descrivere tutti gli aspetti discriminanti nei confronti dei palestinesi e come si è arrivati dal 1948 ad oggi a stabilire la supremazia ebraica, Haggai Elad auspica che nel riconoscere questa grande ingiustizia, chiamandola con il suo vero nome, e cioè apartheid, si possa compiere un primo passo per un futuro più giusto. Nel terzo articolo, dal titolo «Le strade dell'apartheid israeliano in Cisgiordania», gli autori Ahmed Albaz ed Edo Conrad ci illustrano i progetti portati avanti da Israele in Cisgiordania, che di fatto realizzano e consolidano, dal punto di vista delle infrastrutture, la società di apartheid. L'ampliamento della Route 60, la costruzione di sopraelevate, serviranno a facilitare gli spostamenti dei coloni dagli insediamenti di Gilo, Gush, Ezion, Efrat e Kiryat Arba verso Gerusalemme e verso Israele. Ovviamente queste strade saranno percorse, come lo sono già le altre, solo dagli israeliani. La costruzione di queste strade, che bypassano la città di Betlemme e Beit Jala, per favorire la mobilità dei coloni dell'area C verso Gerusalemme, è dunque un altro modo per rafforzare la segregazione. Nel quarto articolo, dal titolo «O fedeltà o silenzio per i registi palestinesi in Israele», l'autrice Suha Araf, regista, sceneggiatrice e produttrice palestinese, a partire dalla vicenda che ha visto condannato da Israele il regista palestinese Mohammed Bakri per il suo documentario Jenin Jenin, che racconta del massacro compiuto dall'esercito israeliano nel campo profughi di Jenin, ci racconta delle difficoltà che hanno i registi palestinesi che vivono in Israele nella realizzazione delle loro opere. Se vogliono accedere ai finanziamenti, devono praticamente ritrarre nei loro film i palestinesi secondo stereotipi e modelli cari all'establishment israeliano. Questo comporta che molti registi operino una forma di autocensura che limita fortemente la produzione artistica, che nonostante tutto viene sostenuta e apprezzata dall'establishment, perché ciò costituisce un'ottima forma di propaganda, dato che i film palestinesi vengono comunque apprezzati all'estero. Conclude la rassegna stampa l'articolo dal titolo «Qual è stato?» di Helga Baumgarten, politologa e storica tedesca. L'autrice fa un excursus storico sulle posizioni assunte dall'OLP, dal Fronte Popolare e da Hamas in merito alla creazione di uno Stato palestinese. Arafat e quindi l'OLP hanno sempre sostenuto la soluzione dei due Stati, a differenza del Fronte Popolare, della sinistra israeliana ed anche di Hamas, che hanno perorato la causa di un unico Stato dove tutti, ebrei, musulmani e cristiani, avessero pari diritti. Ancora oggi l'OLP porta avanti la richiesta di uno Stato palestinese, tanto che all'ONU, il 19 novembre 2020, 163 Stati hanno votato per l'autodeterminazione dei palestinesi, appunto. Tuttavia da anni si va affermando, ma quasi esclusivamente tra i palestinesi che vivono all'estero, la soluzione di un unico Stato, mentre quelli che vivono in Cisgiordania, sfiniti ormai dall'occupazione, sembrano aver perso la speranza di una soluzione politica. L'autrice vede quindi nei giovani palestinesi che vivono in Cisgiordania, Israele e all'estero la possibilità di un cambio di direzione della politica dell'ANP, che ahimè continua ancora a sostenere la soluzione dei due stati insieme a Netanyahu, Trump, i sionisti liberali di Tel Aviv, di New York e agli europei. Per oggi è tutto, passo la linea allo studio. Questa è la Valle del Giordano, a pochi chilometri da Irbid, una cittadina situata nella zona nord-ovest della Giordania. Più a nord, il confine con la Siria. A 4 chilometri oltre il Giordano, il territorio palestinese occupato da Israele. In questa zona è situato il villaggio di Fara, oggi completamente abbandonato. Era abitato da circa 20.000 persone, giordani e profughi palestinesi. In seguito ai bombardamenti israeliani, quelli che non sono morti si sono rifugiati all'interno del territorio giordano. Fara, come molti altri villaggi al confine con le zone occupate, pur non costituendo un obiettivo militare, venne bombardato e reso inabitabile da Israele, perché non potesse servire come punto di riferimento per le Buongiorno Palestina, su Radio Wombat. Abbiamo con noi oggi il dottor Domenico Gallo, magistrato di Cassazione e già senatore, il quale ha approvato e sottoscritto l'iniziativa di sostegno della lettera dei 122 personaggi del mondo arabo e palestinese. Questa iniziativa di sostegno a queste personalità del mondo arabo e palestinese è un'iniziativa che ha raccolto oltre 270 firme di omologhe personalità italiane, tra cui la firma del dottor Gallo. E queste personalità si sono dichiarate avverse all'utilizzo strumentale e politico del termine antisemitismo. L'attributo infame, infamante di antisemita viene attualmente distribuito a piene mani dalle organizzazioni filo-israeliane contro chi critica Israele, e queste organizzazioni filo-israeliane penetrano profondamente le strutture statuali, sia nazionali, italiane ed estere, che le strutture europee. La punta di lancia di questa offensiva pro-israeliana è il documento IHRA, del quale è stato pubblicato in questi giorni anche un manuale d'uso da parte della Commissione europea. Al dottor Gallo chiediamo dunque una valutazione legale su questo documento dell'IHRA. Beh, è un documento che non ha nessun valore legale, è, diciamo così, l'espressione di una cultura portata, diciamo così, da determinate associazioni, è espressione diciamo così, di un tenore culturale. Il problema è come, diciamo così, questa espressione culturale può poi incidere nelle determinazioni, diciamo così, di carattere legale che possono essere adottate nell'ambito delle istituzioni, sia delle istituzioni europee che a livello nazionale. Ora, indubbiamente il tema è caldo perché il problema del razzismo e delle discriminazioni, del linguaggio d'odio, è un problema che è diventato particolarmente grave. Negli Stati Uniti lo è sempre stato, ecco. Vabbè, perché loro hanno il Ku Klux Klan, hanno i suprematisti e stanno tutte queste cose che qui orribili. Ma sta diventando particolarmente grave da alcuni anni anche in Europa, perché c'è un rigurgito di forme di cultura politica neonazista che si esprime attraverso le formazioni, diciamo così, di suprematismo nazionale. E quindi il problema c'è ed è molto grave. E tuttavia, non si può, diciamo così, partire dall'esigenza di far fronte a queste degenerazioni politiche e culturali che mettono in crisi la convivenza pacifica all'interno delle nostre società. Quindi, diciamo così, non si può partire da queste difficoltà per insinuare, diciamo così, un cuneo che strumentalizza il legittimo rigetto, il legittimo ripudio dell'antisemitismo per un fine politico che non è coerente col discorso antirazzista. Questo è il problema. Il documento dei 122 intellettuali palestinesi arabi è un ottimo documento perché mette in evidenza una cosa fondamentale, cioè che qualunque discorso si voglia fare sul razzismo per cercare di definirne i contorni, la pericolosità, eccetera, qualunque discorso non può prescindere dal diritto internazionale dei diritti umani, altrimenti si parla d'altro. E allora vedete, il punto di partenza quale deve essere se noi vogliamo fare un discorso serio sul razzismo? La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Cosa dice la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel suo preambolo? Che poi è il punto cardine sul quale si basa tutto l'edificio del diritto internazionale dei diritti umani. Questo è il punto cardine, ve lo leggo, sono due righe. Considerato, è nel preambolo. Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della pace e della giustizia nel mondo. Cosa ci dice questo documento? Ci dice una cosa fondamentale, che nel 48 non era per niente scontata e adesso è ancora meno scontata. Cioè che esiste una sola famiglia umana. Questo è il problema. E quindi se esiste una sola famiglia umana, tutti gli uomini sono uguali in dignità e diritti. Allora, diciamo così, questo principio cardine, questo metaprincipio, è la cartina di tornasole con la quale noi possiamo valutare le perversioni della politica. Nei quali rientrano l'antisemitismo, l'antiislamismo, il suprematismo bianco, il nazionalismo esasperato, quelle forze politiche che dicono prima gli italiani, prima i finlandesi, prima i tedeschi, eccetera. E questo è il problema. Cioè, dobbiamo misurarci con questo concetto. Se nel valutare qualunque condotta politica, una qualunque teoria o altro, stiamo dentro il concetto che apparteniamo tutti alla stessa famiglia umana. Quando si criticano le politiche di discriminazione compiute dallo Stato di Israele nei confronti della popolazione di origine palestinese, il problema è proprio questo, cioè si critica una impostazione che esclude, diciamo così, questa parte della popolazione dall'appartenere alla stessa famiglia umana. E quello è il fondamento del razzismo. Cioè, se, il fatto di considerare determinati gruppi umani, sociali, culturali, religiosi, insomma, come se facessero parte di un'altra famiglia umana che non ci riguarda a noi, quindi hanno diritti minori, ci possiamo disinteressare della loro sorte, possiamo pensare alla nostra autodeterminazione. Come se gli altri non avessero il diritto di autodeterminarsi o avere diritti uguali a noi. Ora, vediamo purtroppo che nella condotta politica il concetto di antisemitismo viene utilizzato come una clava per intimidire coloro che non contestano, diciamo così, la popolazione ebraica, ma contestano le scelte politiche e la condotta dello Stato di Israele, nei limiti in cui questa condotta si pone, diciamo così, in contrapposizione col diritto internazionale dei diritti umani e quindi col rispetto dell'uguale dignità di tutti quanti gli esseri umani senza distinzione di razza, di religione, di appartenenza etnica o altro. Ed è così grave questa cosa che cioè, l'intimidazione è talmente forte che a un certo punto diventa difficile portare avanti delle critiche. Le critiche allo Stato israeliano. Basta vedere la vicenda del BDS, cioè boicottaggio di questo movimento che diciamo si propugna il boicottaggio, cioè disinvestimento delle sanzioni nei confronti di Israele, cioè propugna che la comunità internazionale adotti delle sanzioni nei confronti dello Stato di Israele per responsabilizzarlo rispetto alle gravi violazioni che compie dei diritti umani e dei diritti del popolo palestinese. Ora, c'è stata, per fortuna, una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la CEDU, che ha messo un punto fermo insuperabile, diciamo così, in questa contesa, cioè ha condannato la Francia. Perché le autorità francesi, le autorità giudiziarie francesi avevano condannato dei militanti del BDS che avevano distribuito dei volantini in un supermercato invitando a non comprare prodotti made in Israele. Questi militanti erano stati condannati per una norma che vieta l'istigazione alla discriminazione. E la Corte europea ha detto: ma quando mai? Ma non esiste proprio. Non ci sta nessuna istigazione alla discriminazione. Queste questioni fanno parte di un dibattito politico, cioè la questione del rapporto fra Israele e palestinesi, se vengono rispettate le norme internazionali, se non vengono rispettate, se la comunità internazionale deve fare qualcosa per ottenere che le delibere dell'ONU vengano attuate, per esempio, invece di essere sempre calpestate. Fa parte del dibattito pubblico, rientra nella libertà di espressione del pensiero e non ha nulla a che vedere con la discriminazione o con l'incitamento all'odio e via dicendo. Quindi, quei provvedimenti che pure sono stati sciaguratamente adottati, no? Pensiamo a una mozione del Parlamento tedesco che ha considerato il BDS come un'azione discriminatoria, antisemita, ecco, anche un analogo provvedimento preso nel febbraio del 20 del Parlamento austriaco, che considera l'azione del BDS come un'azione antisemita. Ebbene, questi provvedimenti sciagurati non hanno nessuna ragione di essere, sono sconfessati dal più alto consesso giuridico che esiste in Europa, giurisdizionale che esiste in Europa, che è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha, diciamo così, disvelato la mistificazione che si nasconde dietro quest'uso strumentale del concetto di antisemitismo. Riprenderemo l'intervista con il dottor Gallo subito dopo un breve intervallo musicale. Salam. ولا حمشي من سكان وبودع أملي فيك يا حلمي بسرعة فات لما تعشمت بيك جاية بسلم عليك ودعني باهتمام سلام أنا تقريبا مشيت أشوف وشك بخير أنا تقريبا نسيت ومن فرقك من كتير بعد الوقت الأخير مش بستطعم Ecco, lei prima inizialmente ci rammentava che non ha un valore legale il documento dell'IHRA e in effetti nel testo del documento IHRA si dice esplicitamente che esso non è vincolante. Però invece nel manuale della Commissione europea emesso in questi giorni c'è un capitolo che è dedicato ai rinforzi legali del documento IHRA, cioè oltre ai rinforzi finanziari, perché chiedono anche soldi. Allora io dico, come la mettiamo? Ci troveremo di fronte ad una situazione in cui al documento IHRA verrà attribuito valore legale, oppure che dal documento IHRA vengano tratte delle leggi per cui a un certo punto diventa reato il termine antisemitismo o l'attribuzione del termine antisemitismo? Abbiamo questo pericolo? No, indubbiamente è reato, perché lo prevede la Convenzione internazionale dell'ONU contro le discriminazioni, l'istigazione alla discriminazione, quindi quello è reato. Il problema è appunto però il concetto di discriminazione, quindi se, diciamo così, fittiziamente si introduce nel concetto di discriminazione qualunque azione critica nei confronti, diciamo così, delle politiche israeliane o comunque critica dello Stato israeliano, c'è il rischio poi che vengano criminalizzate le azioni tipo il BDS o altre forme di espressione. Quindi è una forma di, diventerebbe una forma di intimidazione. Quindi, però, da questo punto di vista, non è che noi possiamo, diciamo così, batterci contro le norme che prevedono la punizione, diciamo così, di atti di discriminazione o di istigazione all'odio razziale. Dobbiamo però dire, guardate, non si può inserire nel capitolo discriminazioni, nel capitolo razzismo o altro, la critica politica, perché questo è fondamentale. Quindi chi fa un'azione del genere fa una mistificazione, e del resto io penso che sia, diciamo così, inutile e controproducente arrivare a una definizione legale di antisemitismo. Perché come si fa a definire l'antisemitismo con una definizione legale? Perché allora noi dovremmo fare anche una definizione legale dell'antislamismo, o dovremmo fare una definizione legale del suprematismo bianco. E queste cose vanno lasciate ai giudici, ma non e alla prassi, non si può, diciamo. Quello che deve essere condannato sono gli atteggiamenti di discriminazione, e le leggi lo prevedono, anche se le leggi civili, non solo penali, che noi dovremmo condannare e impedire tutti i comportamenti discriminatori che quindi violano i diritti o attentano alla dignità di determinati gruppi umani. Però poi spetta ai giudici interpretarlo, ma voglio dire, la cultura deve fornire, diciamo così, degli elementi per interpretarlo, ed è molto pericoloso che si fornisca, invece di elementi razionali, si fornisca, diciamo così, una sorta di veleno politico che avvelena l'opinione pubblica e può avvelenare anche poi le istituzioni. Ecco, l'uso politico del documento è molto pericoloso, ed è giusto sottoporlo a una serrata critica, come hanno fatto questi 122 intellettuali palestinesi e come facciamo anche, hanno fatto anche intellettuali italiani aderendo a questo documento, personalità della cultura importanti. Insomma, io mi tolgo di mezzo perché non sono soltanto un magistrato, ma voglio dire, andrebbe speso questo documento e fatto valere. Purtroppo c'è un silenzio assoluto. E questa è la cosa. E quindi il vostro compito come radio è di rompere questa barriera di silenzio. Non siamo Mediaset, neanche Rai News, ma siamo una piccola realtà. però voglio dire che però, se possiamo chiarire un po' l'idea a qualcuno e lei ci aiuta, le siamo veramente grati. No, volevo dire che le esemplificazioni di antisemitismo che fa il documento IHRA sono state quelle che sono state utilizzate dal punto di vista politico per estromettere Corbyn dal partito laburista. Dicendo perché il meccanismo è abbastanza semplice, dice quello è antisemitismo. Una volta stabilito che c'è l'antisemitismo, si costruisce una specie di castello di parole. E infatti la documentazione che è stata prodotta contro Corbyn è una documentazione voluminosissima, tutta costruita praticamente sulla sabbia, sul niente. Quello che vorrei capire è. Per quanto riguarda il governo italiano, si sa che il Consiglio dei Ministri italiano, almeno questo ci dicono, ha accolto una richiesta dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e ha approvato la definizione operativa di antisemitismo IHRA. Ma che cosa ha effettivamente approvato il Consiglio dei Ministri? Perché il documento IHRA consiste in due parti. Una è la definizione, che quella è la definizione di antisemitismo che va bene, potrebbe essere messa nello Zingarelli. L'altra sono gli 11 esempi di antisemitismo. Allora, il governo italiano, diciamo il Consiglio dei Ministri italiano, ha approvato l'intero documento o solamente la definizione di antisemitismo? Perché questo è un fatto importante su cui non c'è attualmente chiarezza. Bisogna vedere le carte, dovreste chiedere il documento da cui risulta che il verbale, non so, del Consiglio dei Ministri, da cui risulta che hanno approvato questa definizione, in quale riunione l'hanno fatto e cosa sta scritto nel verbale. Purtroppo io non ho notizie, mi occorrerebbe chiedere l'accesso agli atti e informarsi, perché eventualmente si può fare una protesta, si può sottolineare che è sbagliato accettare queste, soprattutto le semplificazioni, e questo può essere materiale poi, se vogliamo, per la commissione Segre, per approfondire l'argomento, chiedere delle audizioni, non so, qualcosa del genere. Ecco, si sa già come funzioneranno queste commissioni governative, perché c'è la commissione Segre e poi c'è la commissione Santerini, che è stata che è coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. La Santerini è una persona che fa parte di istituzioni delle comunità ebraiche di Roma e di Milano, ma ha delle responsabilità nell'ambito di queste comunità. E di queste non si sa ancora quali siano i modi operativi, o lei ha delle informazioni a riguardo? Non so nulla, ma comunque l'unica che diciamo sia un valore legale è la commissione Segre, perché è una commissione parlamentare istituita in base a una delibera del Senato, quindi sì, può legittimamente svolgere attività, diciamo così, di approfondimento culturale e preparatoria poi di risoluzioni o altro che possono indirizzare l'attività del governo. Bene, dottore, noi la ringraziamo molto di questi chiarimenti che lei ci ha dato. Un'ultima cosa, a proposito dei 7 punti del documento sempre HRA che riguardano Israele, no? Questi fanno delle illazioni, cioè delle ipotesi su quello che Israele possa fare o non possa fare nel futuro. Perché quando si dice che uno Stato non è criticabile per qualche cosa, ma chi ha detto che nel futuro non lo sia? Cioè, si suppone di avere una visibilità predittiva sul futuro di uno Stato. Ecco, questo è curioso che nessuno lo metta in evidenza. Una dichiarazione di fede fatta non a Dio ma allo Stato. Che è palesemente assurdo, un po' come avveniva una volta, diciamo, in un certo settore che considerava l'Unione Sovietica come se fosse la patria della Della giustizia, sì. Della giustizia realizzata sulla terra, per cui non si poteva minimamente criticare né per l'oggi né per il domani. Cioè, uno stato salvifico. Non esistono stati salvifici, parliamoci chiaro. Ogni stato è un'organizzazione politica legata, diciamo, alle dinamiche della comunità che la incarna. Quindi considerare, diciamo, lo stato come uno strumento di salvezza è, diciamo, un atto di fede che però ci porta fuori dalla realtà e che può procurare, diciamo, poi legittimare la violenza, come è stata legittimata la violenza di Stalin, così si legittimano altre violenze. Ecco, questo direi che è veramente chiarificatore di questo punto. Bene, la ringrazio molto, dottore. Noi cercheremo di fare del nostro meglio per diffondere questa intervista e per farla conoscere a un più ampio ambito possibile. La ringrazio e la salutiamo. Grazie, buon lavoro. Prima di chiudere vorrei rilevare che le ultime osservazioni del dottor Gallo a proposito di una visione religiosa dello Stato ci ricordano un recente articolo di Ethan Anekin, scrittore israeliano residente a New York, il quale osserva che Israele considera il giudaismo non come una religione, ma come un'identità di Stato. Israele vede se stessa come l'unico luogo in cui può esistere il giudaismo. La religione diventa quindi un'ideologia di Stato ed è usata a fini politici. Per la consueta rassegna musicale avete ascoltato un brano del film La lunga marcia del ritorno, documentario sulla Valle del Giordano per la regia di Ugo Adilardi dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico di Roma. Di questo film vi abbiamo postato il link nella precedente trasmissione di mercoledì scorso. Avete ascoltato poi Suad Massi in Salam, musica dal film Between Heaven and Earth della regista palestinese Naiwa Nayar. Ascolterete ora Raise the Kefir, Alza la Kefia, di Mohammed Assaf. Il cantante palestinese è particolarmente odiato dagli israeliani. Pochi giorni fa un esponente del partito di destra della Knesset ha annunciato che gli sarà revocato il permesso per entrare nella Cisgiordania occupata. Assaf, originario di Gaza, ora vive con la sua famiglia negli Emirati Arabi Uniti. È diventato una celebrità nel 2013 quando vinse il talent show Arab Idol. La sua performance vincente è però nella canzone Raise Your Kefir, canzone che ha suscitato un raro momento di unità in tutte le comunità palestinesi, consentendo alla cultura palestinese di dare nuovamente prova del suo valore come strumento politico che non può essere ignorato. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah! والله يا حروف الوطن زي العقد في الصدر محلى محلى الفا فلسطين الحبيبة مغلى الوطن يا عرب مغلى لما توحدوا كان الحجر مقواه والسين سؤال السجين امتى الفرج القاي والطا طلعت بدر على الشهيد في ثراه واليا يا اهل المراجل لم الشمل محلا واليا يا اهل المراجل لم الشمل محلا والنون والنور النبي وقدسنا مسرى علي الكوفية علي ودول حبيها أني عتابة ومجانة وسامر فيها علي الكوفية علي ودول حبيها أني عتابة ومجانة وسامر فيها هز الكتف بحنية شفرة عتابة ودحية هز الكتف بحنية شفرة عتابة ودحية خلي البارود يهلل ويحليها خلي البارود يهلل ويحليها وغني عتابة وميشانة وسامر فيها عند الحق نخلي العالي واطيها عند الحق نخلي العالي واطيها علي ولولح بيها وغني عتابة وميشانة وسامر بيها نحنا حنكون يوم العرك دروب النصر نضويها يوم العرك دروب النصر نضويها علي ولولح فيها غني عتابة وميشانة وسامر فيها علي الكوفية علي ولولح فيها وغني عتابة وميشانة وسامر فيها هز الكتف بحنية شفرة عتابة ودحية هز الكتف بحنية جفرعتها بودح حيه خلي البارود يهلل ويحليها خلي البارود يهلل ويحليها وحدي وطني لا لا لا